conversazione con Guido. Noi l'abbiamo invitato perché molto semplicemente pensiamo che il suo grande merito sia quello non di commemorare il 77, ma di ricordare questo anno che a nostro giudizio è particolare, perché nella somma di valori riesce a mettere un discorso di fantasia, di creatività che è venuta a mancare in altri momenti e in altri movimenti politici. Quindi riuscire oggi a focalizzare in quello che è per l'appunto i valori credo che non sia una cosa tutt'altro che banale. Ho risposto con piacere all'invito per ovvie ragioni, però voi dovete pensare, dunque, questo documentario l'ho fatto nel 2002 e in seguito l'ho presentato molte volte, poi nel 2003 ho fatto il film Lavorare con lentezza, di cui questo documentario in qualche maniera è propedeutico a. Lavorare con lentezza è stato presentato al Festival di Venezia a settembre. Io dal 23 settembre ho fatto circa 50 presentazioni, tra quasi sempre il film, ogni tanto film e documentario. L'ultima l'ho fatta oggi alla Bicocca, quindi non ho più stimoli di di fare un discorso. Preferisco di gran lunga rispondere a domande e partire, più che rispondere a domande, diciamo, partire da osservazioni vostre, di modo che magari talvolta può succedere che ci siano anche delle cose, delle impressioni, dei suggerimenti, dei modi di vedere inattesi che mi spiazzano, e da lì diventano le cose più interessanti, perché sennò faccio il rischio di fare un pistolotto ormai un po' meccanico, via. Per cui preferisco di gran lunga partire da voi, che certo non siete, imberbi rispetto ai dibattiti, via, no? Credo che si parli, no? Non sia un luogo, perché oggi all'università c'era la grande paura, ma parleranno gli studenti, e poi hanno parlato. Cioè, mi pare di vedere qualcuno che oggi c'era, giusto? E qua non credo che sussista il problema, no?